Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. In questo periodo di incertezza è cresciuta negli italiani, lo abbiamo già raccontato tante volte, l'esigenza di dormire sonni tranquilli e di sapere che i propri risparmi sono al sicuro. Ed è questo il motivo per cui ne abbiamo parlato più volte nelle puntate degli scorsi mesi. Strumenti come i conti di deposito sono diventati in questi tempi di crisi sempre più gettonati dalle famiglie. Perché ha scelto questi prodotti? Però arriva ora una brutta notizia, non sul fronte della certezza del risparmio dei rendimenti, ma da quello della tassazione. Perché? Depositi bancari e postali, così come certificati di deposito, saranno infatti, al contrario di come funzionava fino a questo momento e al contrario di quanto deciso a dicembre, anch'essi oggetto della cosiddetta mini patrimoniale del governo Monti, il nuovo sistema di tassazione del risparmio che coinvolge già praticamente tutti gli altri strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, derivati, fondi comuni e polizze. Già da quest'anno si applicherà anche a questi risparmi quindi il prelievo dell'1 per 1000 previsto dalla manovra Salva Italia. Questa nuova misura è contenuta nelle recenti misure invece sulle semplificazioni. Questa mattina torniamo quindi a spiegare per tutti il funzionamento di questo sistema di tassazione del risparmio che ora andrà a coinvolgere molti più risparmiatori che sicuramente non saranno felici di dover versare questa quota all'erario come tassa su prodotti che sono tradizionalmente concepiti come semplici salvadanai, per utilizzare l'immagine anche del nostro programma, adibiti alla gestione della liquidità piuttosto che come un prodotto di investimento vero e proprio. Vi anticipo già che questo sarà uno degli argomenti di approfondimento di Plus 24 del Sole 24 Ore di sabato prossimo, ma noi questa mattina ne parliamo intanto con uno dei nostri fiscalisti di riferimento su queste tematiche, Fabio Guffanti, dottore commercialista, consulente fiscale anche per banche e società fiduciarie. Dottor Guffanti, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie mille. E poi salutiamo invece una new entry nel nostro parco ospiti. Buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina. Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto & Partners. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro ho fatto bingo stamattina, ho preso due ospiti malatici, poveri, ma hanno accettato lo stesso di darci la loro disponibilità per Salva Danaio, ma mi pareva carino dirlo, se non altro per ringraziarli doppiamente appunto per la consulenza che hanno accettato di prestarci. Allora, come sempre, microfoni aperti a voi che ci seguite da casa, potete chiamarci al numero verde 800 24 0024 oppure potete scriverci e avete tante opportunità per farlo. 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, potete scriverci a salvadanaio@radio24.it, che è la mail della nostra trasmissione. Potete animare anche il dibattito su Facebook, il nostro profilo è naturalmente salvadanaio-radio24, anche perché la questione dei conti di deposito è piuttosto complessa, visto che molti risparmiatori lo scorso anno, per appunto proteggere i propri investimenti, hanno scelto questi strumenti vincolando anche magari determinate somme, per cui adesso si apre anche la parentesi dei quesiti su che tipologia e che ammontare verrà applicata la nuova patrimoniale, e quindi cercheremo appunto di capirlo in questo contesto. Vi racconto intanto cosa sta accadendo in borsa in questa giornata. Diciamo che dopo i cali di ieri oggi ci si aspettava un recupero un po' più consistente per gli listini del vecchio continente. C'è un più 0,3% a Parigi, Francoforte più 0,45%, Londra più 0,15%, Milano più 0,25%. Milano oggi riflette anche sull'esito delle aste che sono state organizzate questa mattina dal Ministero dell'Economia, che si sono concluse con successo, con il rendimenti ancora in discesa. Siccome noi monitoriamo sempre il rendimento sul mercato secondario dei titoli di Stato a scadenza decennale, allora vediamo come sono andate le aste questa mattina. Il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di BTP decennali a fronte degli oltre 5 miliardi richiesti dagli investitori, e il Ministero dell'Economia è riuscito a spuntare un tasso di interesse del 5,5% dal 6% dello scorso 30 gennaio. In calo anche il rendimento proposto per i BTP a 5 anni, collocati 2 miliardi e mezzo di euro. Il tasso è sceso al 4,19%, pensate, dal 5,39% dell'ultima asta, anche in questo caso del 30 gennaio. E però sul mercato ancora aleggia lo spettro greco, Standard & Poor's ha tagliato il rating della Grecia a SD, livello corrispondente a default selettivo, proprio per tenere conto della nuova ristrutturazione del debito ellenico approvata venerdì. Tra l'altro, un nuovo pacchetto di aiuti necessari alla Grecia è stato anche approvato dal Parlamento tedesco, anche questo si temeva potesse essere un altro scoglio importante, ieri superato, ma ancora comunque l'incertezza rimane. I migliori titoli di Piazza Affari: STM più 5,23%, Impregilo più 2,72%, Parmalat più 2%, Pirelli più 1,53%, rialzo di un punto per la Popolare di Milano, per Ansaldo, per Mediobanca, per Luxottica, per Fiat, per Generali e per Buzzi Unicem e per Banca Monte dei Paschi, mentre in negativo troviamo Mediaset che perde 2 punti, il Banco Popolare ne perde 2, Autogrill meno 0,9%, Tenaris meno 0,8%, euro su dollaro a 1,3440. Questi i temi del giorno. Noi però lasciamo la borsa, parliamo sempre di temi di investimento, ma oggi dal punto di vista della tassazione, e a sorpresa arriva anche la mini patrimoniale sui conti di deposito. Dopo il superbollo di Tremonti e la prima versione della mini patrimoniale di Monti, per i risparmiatori è tempo di tornare a fare i conti con nuove tasse applicate ai prodotti di investimento. Lo scenario era già cambiato completamente a dicembre con la manovra Salva Italia, che aveva modificato tutto il sistema della tassazione sul risparmio, andando a sostituire ed estendere le misure del precedente governo con quella che è stata appunto battezzata come mini patrimoniale. Ma questi ultimi giorni di febbraio stanno portando altre novità. La ricetta originaria prevedeva l'obbligo di versare all'erario l'1 per 1000 del valore di mercato del proprio patrimonio, un prelievo che si applicava a tutti gli strumenti finanziari, categoria che comprendeva tutti i prodotti di investimento, come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, derivati, fondi comuni, polizze. Il campo si allargava notevolmente rispetto alle norme precedenti, dato che il superbollo di Tremonti si applicava solo al deposito titoli, ma restavano in salvo i conti deposito e i conti correnti, considerati come semplici strumenti adibiti alla gestione della liquidità. Con l'approvazione del decreto sulla semplificazione fiscale, però, arriva un ulteriore giro di vite. La tassa, infatti, si applicherà anche ai depositi bancari e postali. Anche chi utilizza questi strumenti, quindi, dovrà versare all'erario nel 2012 l'1 per 1000 del valore totale, che nel 2013 diventerà l'1,5 per 1000. Una novità che non sarà certo gradita ai tanti italiani che si affidano a questi prodotti, apprezzati finora per il rendimento certo, la tutela del capitale investito e l'assenza di spese. Un bel caos, devo dire, oltre che una notizia non proprio confortante, perché effettivamente proprio alla ricerca di lidi sicuri del proprio risparmio, quando nei mesi passati abbiamo visto letteralmente volare sull'ottovolante i rendimenti dei titoli di Stato, aveva spostato appunto il proprio accantonamento su questi strumenti, che aveva fatto sicuramente la fortuna di molte banche che erano riuscite a rimpinguare un po' la raccolta che mancava da molti mesi, ma adesso insomma bisogna fare i conti, devono farlo i risparmiatori, devono farlo anche le stesse banche, che devono di nuovo anche riorganizzarsi dal punto di vista della gestione interna con questa fitta rete appunto di mini patrimoniali. Sì. Allora, ho perso un po' di tempo prima di cominciare la mia chiacchierata con Gianni Lupotto e Fabio Guffanti, perché la prima domanda che volevo fare a Lupotto era proprio quella relativa alle scelte di investimento che i suoi clienti stanno facendo in questo momento e a quanto siano condizionate da tutte le numerosissime novità sulla tassazione che sono arrivate negli ultimi mesi. Allora, io per agevolare questa domanda chiedo aiuto ad un'ascoltatrice, che è Maria di Bergamo, perché il suo intervento credo che si sposi molto bene con quello che volevo dire. Maria, buongiorno. Buongiorno. E allora, lei ha fatto proprio delle scelte, ecco. Il problema è questo, praticamente avevo dei bot lasciati scadere, conto deposito aperto a novembre, ora volevo capire. C'è poco da capire, Maria, arriva la mini patrimoniale anche qua. Comunque, allora, è abbastanza significativo, ho detto vabbè, visto i tempi che corrono, rifugiamoci di, ma non per evadere. No, ma c'è infatti tipo, proprio per proteggere. Proteggere il risparmio. Domanda? Cosa si va incontro? Cosa succede? Allora, Maria, la ringrazio per la sua considerazione. Lupotto, forse anche molti clienti suoi gli hanno chiesto la stessa cosa recentemente. Sì, indubbiamente le tematiche fiscali suscitano sempre molto interesse. alle volte addirittura troppo, io dico bonariamente ai miei clienti, che magari prima bisogna concentrarsi sul far rendere bene i propri investimenti e poi dopo vediamo la tassazione che si applica. Comunque, per rispondere anche all'ascoltatrice, la conseguenza immediata è che evidentemente anche sul conto di deposito andrà pagato lo 0,01% sul controvalore depositato. Ma anche detto questo, per non drammatizzare troppo questa tassa, che fino al 31 dicembre, anzi fino a luglio, i conti di deposito erano gravati da un'imposta del 27%, perché erano assimilati ai conti correnti. Questa imposta adesso è diventata del 20%. È vero che si applica lo 0,1, però il combinato disposto delle due, dei due dispositivi, per l'appunto, neutralizza, lei dice, la no, nuova avvantaggia, non neutralizza, perché diciamo per un deposito per esempio di 100.000 euro, questo 0,1 significa 100 euro di tassazione, mentre invece per quanto riguarda la differenza tra il 20 e il 27 applicata sull'interesse tipico su 100.000 euro del 4%, e quindi di 4.000, la differenza è di circa 200 euro, e quindi diciamo alla fine questi due effetti si sono neutralizzati. A finire che l'abbiamo trasformato in una buona notizia questa mattina, appunto, la novità della mini patrimoniale. La ringrazio anche per averci fatto l'esempio, perché è generalmente molto apprezzato dai nostri ascoltatori e sicuramente molto utile, quindi un lavoro che avrei dovuto fare io, me lo sono fatto fare ovviamente dai miei esperti. Detto questo, Lupotto, però, ecco, in termini complessivi, lei diceva sicuramente un risparmiatore deve pensare al bene della propria famiglia, deve guardare in un'ottica di lungo periodo a quello che è l'obiettivo del risparmio e dell'accantonamento che riesce a fare. Detto questo, però, è anche vero che da luglio scorso, tra il bollo sui dossier titoli introdotto da Tremonti, che ha avuto questo regime transitorio, la mini patrimoniale di Monti su tutti i prodotti di investimento e adesso questa, la riorganizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie e tanto altro, è difficile che, essendo bombardato in questo modo, un risparmiatore oggi trascuri il tema della tassazione. Che ne dice Lupotto? Un tema molto importante, perché a tutti gli effetti, poi se andiamo a sommare l'effetto sia della mini patrimoniale sia quello dell'incremento della tassa sulle rendite finanziarie, che sulla gran parte degli strumenti finanziari invece è aumentata anziché diminuire come è successo sui conti deposito, questa, la componente fiscale comincia ad assumere un valore molto elevato, più del 20% ormai. Allora, Fabio Guffanti, vengo a lei. Ha sparigliato un po' le carte questo intervento contenuto nelle misure sulle semplificazioni, perché effettivamente fino ad ora il conto di deposito era stato escluso da tutti gli interventi sulla fiscalità, chiaramente provocando anche qualche discussione, qualche osservazione in merito a questa scelta. Adesso rientrano. Vogliamo intanto rassicurare gli ascoltatori che il conto corrente normale non viene toccato da nessuna patrimoniale o mini patrimoniale? Ma allora, diciamo innanzitutto che il testo definitivo del decreto legge uscito dal Consiglio dei Ministri venerdì non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tant'è vero che questa manovra sui certificati di deposito non è contenuta nella bozza di decreto sulle semplificazioni fiscali che era stata pubblicata i giorni antecedenti al Consiglio dei Ministri. Io ritengo di dare risposta affermativa alla sua domanda, in quanto non ne vedrei francamente un motivo di assoggettare i conti correnti a quest'ulteriore imposta mini patrimoniale, anche perché non dimentichiamoci che con l'abbassamento dell'utilizzo della soglia del contante questi conti correnti ormai sono diventati uno strumento obbligatorio. Insomma, se io ho 1.000 euro non posso far altro che aprire un conto corrente, quindi io non penso proprio che i conti correnti siano toccati da questa mini patrimoniale, e quindi credo che permangano il pagamento del 34,20 euro se persona fisica e 100 euro se è persona giuridica, ex decreto 6 dicembre 2011. Quindi è che la, appunto, l'imposta di bollo, quella nella forma tradizionale che tutti conosciamo. Esatto. Allora, adesso ci fermiamo, speriamo intanto di aver già posto le premesse di base per proseguire la nostra conversazione. Vedo già che il tema ha innescato l'interesse di molti ascoltatori che sono pronti ad intervenire. Il tema è effettivamente, però io credo che ancora non abbiamo una risposta a questo, effettivamente come funzionerà, se c'è autonomia decisionale delle banche in questo, come funzionerà per esempio per i conti vincolati, perché i conti di deposito nelle ultime offerte commerciali, appunto, che sono spuntate sul mercato, effettivamente hanno proposto soprattutto questa tipologia per i risparmiatori. Allora cercheremo appunto di chiarire anche questi aspetti. Ci sono pronti Lorenzo dalla provincia di Vicenza all'800240024, ma anche Silvia dalla provincia di Como. Datemi solo pochi istanti e ritorniamo subito tra di voi. Eccoci ritrovati di nuovo insieme. Questa mattina parliamo dell'introduzione della mini patrimoniale anche sui conti di deposito, che fino a questo momento, con gli interventi relativi alla revisione della tassazione sui prodotti di investimento, erano rimasti esclusi, e invece appunto entra con le ultime misure sulla semplificazione. Allora, con noi abbiamo stamattina, per discutere di questo e soprattutto per rispondere alle domande degli amici che ci seguono da casa, Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, Fabio Guffanti, esperto fiscale appunto su queste tematiche, consulente fiscale proprio in particolar modo specializzato non solo su queste, ma per quello che riguarda Salvadanaio lo facciamo soprattutto specializzare generalmente su questi argomenti. 800240024, il numero verde per le vostre domande. E allora, Lupotto, è chiaro sulla base di quello che conoscete fino a questo momento come si determina il valore dello strumento su cui applicare questa mini patrimoniale, appunto il valore del conto di deposito sul quale applicare l'imposta? La domanda sui conti vincolati, appunto, per esempio, come possiamo rispondere agli ascoltatori? Per quanto riguarda i conti vincolati, no, non è ancora del tutto chiaro, perché ricordiamo che il presupposto oggettivo dell'imposta è diciamo una rendicontazione, e fa fede la data della rendicontazione, quindi bisogna vedere le banche quali frequenze adotteranno per rendicontare ai clienti la corresponsione degli interessi. Per esempio, è presumibile che questi conti di deposito, che normalmente fanno una rendicontazione non troppo frequente, in quanto la movimentazione non è rapida, faranno una rendicontazione presumibilmente a fine anno, e quindi sul controvalore a fine anno verrà applicata questa imposta. Certo, però a complicare le cose arriva il fatto che, per esempio, possa aver vincolato un conto di deposito non in un anno, come dire, preciso, cioè tra gennaio e dicembre, ma possa aver sottoscritto un contratto con la banca, Guffanti, chiedo aiuto a lei, tipo a marzo, averlo vincolato fino al marzo successivo. Lì in questo caso magari la rendicontazione funziona in maniera diversa, o comunque avviene in maniera trimestrale, semestrale, annuale, esattamente come per un conto corrente o un altro strumento di investimento? Ma quella è certamente una scelta del cliente, perché se il cliente vuole avere una rendicontazione annuale, che è la rendicontazione minima prevista di legge, nessuno glielo vieta. Certo che se vuole avere una rendicontazione periodica infrannuale superiore, quindi trimestrale, semestrale che sia, ma comunque sia, una cosa che è chiara è che l'imposta è comunque dovuta in misura annua, quindi prescinde dall'invio della documentazione, diciamo, dell'intermediario. Se è trimestrale pagherò diviso 4 ogni 3 mesi, ma alla fine dell'anno le due cifre si equivalgono. Allora, andiamo a sentire altre domande degli ascoltatori. Vi ricordo le modalità che potete utilizzare per interagire con noi. Sono 800240024. Se volete intervenire in diretta, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24, oppure potete andare anche a commentare su Facebook salvadanaio-radio24. Lorenzo dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Ecco, io il 14 febbraio mi sono avventurato in un cosiddetto trasloco facile, che poi facile non è, del conto corrente, ma anche del dossier titoli. Successivamente ho letto il cosiddetto decreto Salva Italia e temo che, dovendo praticamente, ho aperto un nuovo dossier titoli nella nuova banca, però dovrò chiudere appena si metteranno d'accordo le due banche. Il trasloco facile, magari per spiegarlo ai nostri ascoltatori, è proprio una operazione commerciale decisa da una grande banca italiana che aiuta il cliente che vuole spostare il suo conto corrente o il conto titoli appunto da un'altra banca presso la sua. Ti fanno tutto loro praticamente a costi contenuti, se non azzerati, teoricamente. Sono nei patti chiari, si chiama questo accordo tra le banche. Comunque, ecco, io lo sconsiglio perché è una cosa che va proprio per le lunghe. Comunque, per me è questo. Io trasloco difficile, lo facciamo chiamare Lorenzo. Io mi sembra di aver capito che temo che pagherò lo 0,1% quasi due volte. Perché cosa succede? Che adesso la vecchia banca mi farà pagare i 2/12, perché siamo alla fine del mese di febbraio, dello 0,1% del valore attuale del mio piccolo patrimonio, che ci sono tre cose dentro, ecco, tre veramente. Ecco, poi perché quel conto lì andrà chiuso, però c'è scritto nel decreto Salva Italia che come minimo si paga 34,2 euro. Beh, quella è l'imposta di bollo tradizionale, Lorenzo, sul conto corrente. Sì, come minimo, quando si chiude un conto, c'è scritto alla sua chiusura, si paga come minimo 34,2 euro. Allora, i 2/12 dello 0,1% del valore del mio patrimonio sarebbe minore di 34,2. Lorenzo, guardi, si fermi lì perché a me fa male la testa. Io sono riuscita a seguirla ben poco, sicuramente avranno fatto meglio i miei esperti di questa mattina. Guffanti, comincio da lei. Si è riuscita a seguire appunto il percorso tracciato dal nostro ascoltatore che appunto sta facendo un trasloco invece piuttosto complesso del suo dossier titoli? Sì, l'ho seguito, diciamo che è uno dei vari chiarimenti che si attende da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché non è assolutamente chiaro. Io ritengo che, visto che costituzionalmente qualunque duplicazione d'imposta è vietata per legge, nel caso di un trasloco è vero e sacrosanto che la norma oggi dice c'è un importo minimo da pagare comunque nella misura di 34,20 euro, ma ritengo che anche questo 34,20 euro sarà portato in ragione d'anno, perché sennò sarebbe troppo penalizzante per il risparmiatore, soprattutto per i piccoli patrimoni, perché sono quelli che ora della fine vengono ad essere penalizzati da questa misura minima, perché un piccolo patrimonio con una imposta minima, del 34,20 ovviamente va a pagare di più dello 0,1%. E quindi sono strutture che ritengo che dovranno essere sistemate. Tra l'altro, di circolare ministeriale. Abbiamo ancora Lorenzo in linea, o ci ha salutato Lorenzo? Quindi lei che cosa farà adesso? Non so, chiaramente speriamo di averle dato tutte le indicazioni necessarie. Completerà questo trasloco comunque? Sì, per forza, ormai sono due settimane, ma è stato abbastanza confortante quello che mi ha detto il suo esperto. Certo, detto questo, no, Lorenzo, comunque, se dovesse verificarsi qualcosa di strano nella sua movimentazione, ce lo faccia sapere, che poi magari indaghiamo e chiediamo ragione alle banche interessate in questa operazione di trasferimento del suo risparmio. Grazie molte a lei. Andiamo a Franco dalla provincia di Roma. Franco, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti, Deborah, per la tua trasmissione. Sei eccezionale nella conduzione e nella tua preparazione. Una domanda rapida. Sono in macchina e quindi credo di non aver sentito bene. Riproviamo. Con l'introduzione dell'1/1000 della mini patrimoniale sui depositi, vengono soppresse le ritenute fiscali sugli interessi? No, vengono riorganizzate. Franco, grazie per la domanda. Allora, Lupotto, visto che credo che era il tema a cui si riferiva Franco, era tra l'altro quello che ha accennato lei prima, no? La revisione, la tassazione sulle rendite finanziarie. Sì, sì, con la revisione della tassazione sulle rendite finanziarie, la tassazione sui depositi bancari di ogni tipo è passata dal 27% al 20%, quindi non viene ovviamente annullata, ma viene ridotta in maniera abbastanza considerevole. E facevamo prima l'esempio appunto del fatto che l'introduzione della mini patrimoniale attutisce questo vantaggio ma non lo elimina, quindi diciamo c'è un onere ma anche un sollievo. Lupotto, visto che questo è un tema, io siccome faccio sempre con molta modestia, ammetto le mie mancanze, e questo è un tema che mi aveva suggerito lei, lo ricordo, lo segnalo così, prima ci siamo sentiti prima dell'inizio della trasmissione, come faccio tutte le mattine con gli ospiti che interverranno nel programma, mi spiega come funziona questa procedura che si chiama affrancamento e che in qualche maniera è salva da questa piccola stangata sul risparmio che è arrivata di recente, salva appunto i rendimenti che molti risparmiatori hanno realizzato fino al 31 dicembre scorso. Sì, con il cambio della tassazione dal 12,50 al 20%, stiamo parlando ora dei capital gain, poteva succedere che dal momento che la tassazione viene applicata nel momento della sua realizzazione, potrebbe succedere che un risparmiatore vende nel mese, per esempio, di febbraio o di marzo un'azione che ha comprato moltissimo tempo fa e matura una plusvalenza sulla quale sarebbe costretto a pagare il 20%, anche se la plusvalenza per la sua gran parte è maturata nel periodo di imposta precedente, quando la tassa era ancora al 12,50. Allora, con il decreto si è voluto correggere questa possibile stortura e quindi si è inserita una misura che si chiama di affrancamento, che va detto è facoltativa e deve essere azionata dal risparmiatore, quindi è su richiesta del risparmiatore, e si applica all'intero dossier titoli, per cui il risparmiatore può decidere che i prezzi di carico del suo dossier titoli vengano rivalutati al 31/12/2011 pagando il 12,50% sulle plusvalenze maturate fino al 31/12/2011. Ottimo. In questo modo sterilizzando gli effetti negativi di una vendita successiva. Benissimo, allora c'è un ascoltatore a cui io voglio rispondere perché tutto sommato ha anche ragione, ma devo dire che negli ultimi mesi abbiamo viaggiato quasi sempre in questo modo nella nostra trasmissione. Un ascoltatore dice: vi ascolto sempre con piacere, mi spiegate l'utilità di questa trasmissione basata sulla completa incertezza? Guffanti, è quello che abbiamo detto prima, però quantomeno il nostro compito non è dare delle certezze a nessuno, perché nessuno ne ha in questo mondo. Il tema è invitare le persone che hanno degli investimenti organizzati in un certo modo a tenere sotto osservazione quello che sta succedendo e come le cose stanno cambiando anche dal punto di vista della tassazione. Per esempio adesso Carlo D'Ancona vorrebbe intervenire, lo faccio intervenire subito. Lui dice: ha una mezza idea di aprire il conto di deposito, a questo punto che cosa faccio e che cosa mi aspetta? Quindi noi glielo spieghiamo che le cose stanno cambiando. Carlo, è così? È proprio inutile quello che stiamo facendo questa mattina? Non cerco complimenti. Vabbè. Grazie, ci dica. Allora, innanzitutto volevo un po' intervenire sulla tassazione. Cioè, prima era il 27%, l'hanno portata al 20% e sembrava una cosa buona per noi risparmiatori. Mm. Però adesso ho fatto un conto rapido della serva, insomma, 100.000 euro al 3% mi dava 3.000 euro, meno il 27 mi portava 2.190 di interessi, mentre sempre al 3% al 20 me ne dava 2.400, ma se devo pagare lo 0,1 mi viene 2.003, se devo pagare lo 0,15 mi viene 2.250, perciò in pratica è quasi che ritorniamo, non dico al 27, ma al 25, al 26, insomma è quasi azzerato. Allora Carlo, tra l'altro guardi, mi fa impazzire l'anconetano che io conosco benissimo, stavamo sorridendo io e Paolo Corleone, che invece è un senegalese, quindi con affetto glielo dico Carlo, anche un po' per così perdere tempo, visto che adesso devo andare verso la pausa. Faremo due conti e ritorneremo magari con Gianni Lupotto su questo conteggio che lei ci ha proposto, che effettivamente probabilmente molti staranno facendo, molti ascoltatori che magari stavano adesso considerando l'apertura, la sottoscrizione di un conto di deposito, e adesso adesso devono fare un duplice calcolo, capire come funzionerà la tassazione sul guadagno, appunto, che verrà applicata e che viene applicata dal 1 gennaio, per la verità, e come appunto avviene quello che Lupotto prima ha definito il combinato disposto anche con la nuova mini patrimoniale. E quindi a questo punto, se effettivamente la convenienza introdotta in qualche modo anche dalla riduzione dell'aliquota fiscale della rendita appunto finanziaria, della liquidità applicata alla rendita, e effettivamente se con la mini patrimoniale appunto viene vanificato questo vantaggio. Lupotto, visto che l'ho chiamata in causa, adesso deve di nuovo aiutarmi lei a fare un calcolo per il nostro ascoltatore anconetano, per Carlo appunto. Allora, ammettendo di voler aprire adesso un conto di deposito, depositando 100.000 euro appunto, adesso tra l'altro le offerte bancarie riescono ancora a viaggiare intorno al 4% di rendimento lordo, c'è chi fa qualcosa di meglio, qui qualcosa sotto, però forse però con i tassi in calo magari verranno ridotti prossimamente. Detto questo appunto, mi rifà quel calcolo che aveva fatto all'inizio, così aiutiamo l'ascoltatore a fare il suo. Lo facciamo anche stendendolo un attimo, perché l'ascoltatore di Ancona ha ragione quando dice che in certe condizioni abbassarsi del tasso la nuova tassazione conviene meno. Comunque cominciamo con i tassi correnti. Un deposito al 4% lordo con la tassazione al 27% rendeva prima il 2,92 netto. Okay? Adesso con la tassazione al 20% rende il 3,2 netto, togliendo lo 0,1 di mini patrimoniale rende il 3,1. Quindi conviene di più rispetto a prima, sostanzialmente. Dal 2,92 siamo al 3,1, appunto, abbiamo fatto la depurazione della mini patrimoniale. Okay. Naturalmente ha ragione l'ascoltatore, non si paga più soltanto il 20, perché la mini patrimoniale ha un effetto anche diciamo decurtativo dell'interesse. Se invece gli interessi sul conto deposito si abbassano e per ipotesi in un futuro ci fossero interessi al 2%, allora con la tassazione precedente il 2% decurtato del 27%, adesso non sono riuscito a fare il calcolo esatto, dovrebbe venire attorno all'1,54%, mentre invece con la decurtazione al 20 viene l'1,60, meno lo 0,1 viene 1,50. Allora è evidente che per i tassi di interesse bassi l'incidenza della mini patrimoniale può comportare un aggravio di spesa rispetto alla situazione precedente. Certo, è anche vero che noi adesso, come dire, ragioniamo a bocce ferme, nel senso che ragioniamo a un tasso di interesse già predeterminato, che è questo 4% lordo, con una mini patrimoniale appunto applicata quest'anno, e a quella nuova che verrà applicata l'anno prossimo. Poi non è detto, Guffanti, che ritornino e magari i tassi si abbasseranno, come potrebbero di nuovo alzarsi, perché anche da questo punto di vista figuriamoci che certezza abbiamo. Detto questo, al momento non è detto che questa diventi una misura strutturale. Sì, non è assolutamente detto. I tassi, poi peraltro anche la Fed americana ha già detto che fino a tutto il 2014 resteranno fermi all'1%, non credo che BCE farà mosse diverse, ecco, per cui forse per un paio d'anni i risparmiatori potrebbero avere quantomeno certezza sull'ammontare dei tassi, che resteranno più o meno quelli attuali. No, è anche andata bene a chi è riuscito a spuntare il 4% lordo, la BCE ha l'1%, siamo già appunto su un'offerta bancaria veramente completamente fuori mercato in questo momento, ma che il sistema bancario ha dovuto fare perché altrimenti non raccoglieva più neanche risparmio dei piccoli negli ultimi mesi. Per cui, perché purtroppo, domanda del primo telespettatore, ci sono delle distorsioni create dalla normativa fiscale che agevola certi strumenti finanziari a svantaggio di altri, quando invece la variabile fiscale non dovrebbe essere il criterio per scegliere uno strumento finanziario, in quanto dovrebbe essere neutra. Però così non è in Italia, ma non oggi col decreto Monti, da ormai decenni e decenni. Allora, a proposito di tutto quello che abbiamo detto anche prima relativamente all'incertezza, se c'è una cosa che non è certa è la legge. Viviamo proprio in un contesto, ma questo è normale, di incertezza della legge, perché su molte cose appunto cambiano di frequente, soprattutto alla luce delle derive dell'ultima crisi, della crisi che ancora stiamo vivendo. Gli interventi sono stati tanti e ripetuti, soprattutto relativamente alla tassazione sul risparmio. La madre degli interventi è stata quella di Tremonti, quando a luglio scorso era arrivato il bollo sui dossier titoli. E allora c'è una domanda su questo, ritorniamo indietro di qualche mese, di Arduino dalla provincia di Milano. Arduino, buongiorno. Sì, buongiorno signora, buongiorno ai suoi ospiti. Volevo proprio un chiarimento: oltre a pagare quest'anno l'1% e l'anno prossimo l'1,5%, dopodiché dovrò tenere conto anche, ad esempio, vedo qua dai 50.000 euro ai 149,99 70 euro e dal 2013 230 euro, così. Cioè devo tener conto oltre all'1% anche di questi eventuali soldi da sborsare. Allora, Arduino, da quello che capisco, no, quelli sono stati già pagati. Fine a dicembre è stato un regime transitorio. Guffanti, ci aiuti lei? Ecco. Sì, assolutamente sì, stia tranquillo. Quella tassazione per scaglioni era applicabile solo fino al 31 dicembre 2011. Lo 0,1% o 0,15% è sostitutivo a partire dal 1 gennaio 2012, quindi non è un cumulo delle due norme, ma questa manovra Monti è sostitutiva della precedente manovra Tremonti, scusate il gioco di parole. C'è un ascoltatore invece, Guffanti, che ci chiede di ricordare, qui magari lo confortiamo, la banca mi dice che per giacenze inferiori a 5.000 euro il bollo sul conto corrente 3420 non si paga, mi pare di poterlo confermare che è così, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Si dice che l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo, e anche qui potremmo discutere su che cosa sia il valore medio di giacenza annuo, ma comunque diciamo vediamolo in termini puramente matematici, dice risultante dagli estratti conto e dai libretti di risparmio è complessivamente non superiore a euro 5.000. Quindi non, se è sotto i 5.000 euro, io ritengo che non paghi neanche i 34,20 euro di bollo, che è l'imposta minima, ma un'imposta minima non si applica quando c'è un'altra norma che dice che l'imposta non è dovuta. Questo io spero che tra l'altro non incoraggi le persone a spezzettare tutto il risparmio in 15 conti correnti, perché altrimenti diventa una questione complicata anche quella, però di fatto magari potrebbe essere anche conveniente, ma questo è sicuramente un commento che non ci interessa. Allora, un'ultima considerazione la voglio fare con un ascoltatore che ci scrive: stando alla logica dei diritti del contribuente non si può sperare che la patrimoniale sui conti di deposito possa essere applicata senza effetto retroattivo, ma mi sembra il minimo, infatti la patrimoniale viene introdotta da quest'anno. Guffanti, mi aiuti lei, non abbiamo nessun tipo di effetto e applicazione retroattiva? Necessariamente deve essere dall'1 gennaio 2012, se lo facessero con effetto retroattivo non credo, ma se lo facessero è una norma che sicuramente sarà tacciata di incostituzionalità e quindi il nostro risparmiatore può stare tranquillo che è solo dal 2012 che questo balzello è dovuto. Anche se lì, come lei sa, avendo introdotto la nuova tassazione sui capitali scudati, anche lì si è aperto fortemente questo dibattito, ma mi pare che ancora non sia stata trovata nessuna risposta, però lì c'è un altro problema. L'ultima domanda non riesco a farla fare a Romano da Padova. Romano, se vuole ci scriva. Si riferiva anche in questo caso alla soglia dei 5.000 euro, alla tassazione appunto che non viene applicata, non c'è l'imposta di bollo, c'è l'esproprio dell'importo se uno supera di poco? No, non c'è nessun esproprio, c'è solamente l'applicazione della nuova appunto tassazione, a meno che appunto non sia su un conto di deposito, se è sul conto corrente la mini patrimoniale non c'è, almeno fino a questo momento, e speriamo che nessuno venga in mente di applicarla anche lì. Grazie molte a Gianni Lupotta, Fabio Guffanti per essere stati con noi, soprattutto bravi, e grazie per la loro chiarezza. Scriveteci, noi ci faremo aiutare a rispondere anche alle vostre domande. Grazie a tutti, torniamo domani, buona giornata.